bella negli occhi, vidi per te che fave il nuovo amore. Orlando mio, tu non conosci Alcina. Alcina? Alcina è questa. Quella che al suo voler volge l'inferno. Il suo potere eterno ora sarà, poiché ha acquistato Alurna, che del saggio Merlin il cenel chiude, e a custodirlo ha tratto l'immortale Alonte invulnerabile. Il fatale d'un demone concetto e d'una maga. Invincibil possente di ferrea mazza e di gran core armato. L'alto trionfo a me riserva il fato. Costanza dal mio cuore astolfo impara, ti racconsola a